quanto vuoto c'è. Circo in questo mio passato e mi accorgo quanto amato e che ora io non vivo senza te. Sto vivendo di speranza e tu sai. Che anche tu mi ami e mi vuoi, sempre lo farai, sempre resterai accanto a me. Adesso stringimi di più in questa notte blu e dammi il tuo amore con tutto il cuore. Sempre. Io darei